Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Con quella di ieri sera dell'Inter a San Siro sono 3 sconfitte casalinghe su 3 partite per le squadre italiane negli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Non sono verdetti definitivi, ma insomma, anche se qualche margine di speranza rimane, insomma, io credo che il cammino sia comunque almeno in parte compromesso. E mi pare che se torniamo, e qui chiamo in causa Fabio Tavelli, buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Se torniamo ai commenti generali all'indomani dei rispettivi sorteggi, io credo che di sibille cumane dalle nostre parti ce ne siano pochine. Sì, questo è vero, è soprattutto vera la prima parte di quello che tu hai detto, cioè il cammino è in salita, certamente, perché insomma, le 3 squadre italiane non potranno andare a pareggiare in alcun modo, ma dovranno solo vincere le loro partite, e potrebbe anche non bastare. Detto questo, effettivamente è un turno, è un'andata di turno che boccia pesantemente il calcio italiano, che ha, ripeto, tutte le possibilità per rifarsi, ma sarà costretto ad un'impresa. In sede di sorteggio lo Shakhtar Donetsk era la squadra più cercata da parte di tutti. Sì. È anche vero che la Roma l'ha affrontata nel peggior momento possibile, da un punto di vista ambientale e dal punto di vista umorale. La speranza è che la Roma abbia trovato con Montella e ieri a Bologna anche quella svolta caratteriale che possa dare la possibilità almeno di tentare la grande impresa. Le altre due preoccupano nella misura in cui l'Inter non perdeva a San Siro da una vita, e il Milan invece sembra essersi abituato a perdere in casa, perché le ultime apparizioni a San Siro sono state davvero deficitarie. Complessivamente è un calcio italiano che esce decisamente ammaccato. Però, se ci ricordiamo, l'anno scorso ci fu l'eccezione dell'Inter, ma per il resto comunque le squadre italiane fecero una gran fatica e andarono fuori subito. Ah, non c'è dubbio. Comunque, al momento, tra Champions prima, Coppa Campioni adesso, Europa League, le squadre italiane hanno giocato 40 partite in questa stagione, dalla fase girone a oggi, e ne hanno vinte 11, ne hanno perse 13 e ne hanno pareggiate 15. Quindi non è certamente un bilancio della nazione calcistica di primo piano. Più tardi insomma, ci sarà il tuo coequipier Beppe Bergomi a commentarci in dettaglio questa sconfitta dell'Inter e questa vittoria del Bayern. A te però su questa partita chiedo un paio di curiosità. La prima: ma dove l'ha trovato quel portiere il Bayern? Sì, tra l'altro ha questo cognome che si presta naturalmente a tutte le ironie. Beh, Kraft ha tolto il posto a Hansi Orbut ormai in Bundesliga da qualche giornata, e si era infortunato, aveva giocato solo il primo tempo contro il Mainz, aveva preso un colpo alla testa e insomma, per precauzione Van Gaal l'aveva tolto. È un buon portiere, è un ottimo portiere direi, perché mi sembra molto attento, molto reattivo, e soprattutto al contrario dei portieri delle grandi squadre che molto spesso vengono sollecitati poco, lui ha in questo caso la fortuna di essere tenuto sempre molto sveglio dalle disattenzioni dei suoi centrali, e quindi questo gli consente di allenarsi molto e di stare sempre molto molto attento, molto vigile, e finora lui ha risposto davvero con grande intelligenza. Credo che la Germania davvero possa dire di aver trovato un portiere di sicuro avvenire. Per l'impressione, anche per l'età. Senti, c'è questo grande equilibrio complessivo comunque ancora, perché è chiaro che le italiane sono sfavorite a questo punto, però è anche vero che nel panorama di questi ottavi soltanto il Chelsea mi pare si possa ritenere al sicuro. Ma ci sono due dati secondo me interessanti. Il primo è che in 8 partite abbiamo assistito solo a una vittoria casalinga, che tra l'altro quella dell'Arsenal contro il Barcellona, che non unanimemente ma quasi è considerata la più forte del giro. Questo significa due cose. La prima è che magari può anche essere normale, visto che le giocavano in casa le seconde dei gironi e le prime giocavano fuori, quindi le prime a livello teorico sono più forti delle seconde. Pur vero, se secondo me tra Milan e Tottenham è il Milan quella più forte delle due, però i gironi hanno detto questo. Di partite compromesse direi che c'è quella del Copenaghen, le altre mi sembrano comunque aperte. Nel senso, poi chi più chi meno. Il problema vero qual è? È che c'è una statistica che dice che soltanto nel 1996 l'Ajax, nella finale che poi andò a perdere contro la Juventus, si qualificò per un turno successivo avendo perso la gara d'andata in casa, perse contro i greci del Panathinaikos. Questo significa che la storia dice che chi perde in casa la prima ha davvero delle grandissime difficoltà e quasi mai riesce a ribaltare il risultato. La speranza è che almeno una su tre, ottimisticamente sì. 2 su 3, ma almeno una ce la faccia sì. stavolta. Sì, sì, però ecco, sì. la storia non è favorevole. La storia non è tanto di questa idea. No. Senti, chiudiamo con Villarreal Napoli. Come ti immagini stasera gli spagnoli? Perché il Napoli, grosso modo, ce lo possiamo immaginare. Intanto con un minimo di testa già rivolto a San Siro, com'è inevitabile. Ma provandoci seriamente, soprattutto nella prima parte della partita, invece così è l'atteggiamento degli spagnoli che ti chiederei quale può essere. Ma io credo che loro attaccheranno forte sin da subito, nel senso che loro hanno una spinta emotiva fortissima. Mi raccontava Alessio Tacchinardi di quando lui ha giocato nel Villarreal che è impossibile pensare a un Villarreal che arrivi allo stadio senza una spinta morale fortissima, e questo contagia anche gli atteggiamenti tattici più prudenti che potrebbe avere il Villarreal. Quindi mi aspetto davvero un assalto subito. Il Napoli a me non piace moltissimo, te lo dico sinceramente Gigi, questa rinuncia a Cavani, questa rinuncia a Maggio, questo turnover. Mi sembra un atteggiamento molto provinciale. Io capisco l'importanza del campionato, per la partita è lunedì, sì, faccio davvero fatica a pensare 4 giorni, vero? Faccio veramente fatica a pensare che un giocatore così giovane come Cavani possano essere in grado di affrontare il doppio impegno. Però certo, Mazzarri lo vede tutti i giorni e legittimamente avrà deciso per il meglio. Fa un po' a pugni, no? Sentire De Laurentiis che parla di Superlega Europea, sì. E poi vedere il Napoli che si gioca una partita decisiva senza Cavani. Però insomma, avranno fatto i loro conti e questo non ci impedirà di fare il tifo per il Napoli questa sera, perché insomma sarebbe importante per il calcio italiano che il Napoli ce la facesse. Grazie Fabio. Grazie a voi, buona giornata. Quanti messaggi ci sono arrivati nel frattempo? Beh, uno dice per esempio: bastando un gol di scarto qualunque risultato di vittoria andrebbe bene, cosa vuol dire, come ha detto Tavelli, che vincere potrebbe non bastare? Ma era evidentemente riferito alla Roma, perché in effetti alla Roma vincere per 1-0, per 2-1 non basterebbe, non era certamente riferito a Inter e Milan. Non è che le avversarie italiane sono state in complesso molto sottovalutate? Domanda Marione Scalia da Milano. Sì, sono state molto sottovalutate, soprattutto lo Shakhtar, ma anche il Tottenham, a parer mio. E poi altri ancora che riguardano magari Roma e Bologna-Roma, di cui parliamo più tardi. Nel frattempo, credo, almeno a sentire le telefonate di 2-3 giorni fa, credo che a Napoli avranno tirato un sospiro di sollievo, visto che non sarà l'esegrato Rizzoli l'arbitro di Milan-Napoli, ma sarà Gianluca Rocchi di Firenze, che è stato designato poco fa per questo posticipo del lunedì sera, mentre Sampdoria Inter sarà diretta da Gervasoni di Mantova e Juventus Bologna arbitrata da Romeo di Verona. Il recupero di ieri ha prodotto 2 squalifiche per somme di ammonizioni, perché erano in diffida sia Mexes della Roma che Ramirez del Bologna, che sconteranno quindi un turno di giornata di squalifica. Tra poco vi ricordo il commento, insomma una rivisitazione di Inter-Bayern affidata a Beppe Bergomi. Per il momento andiamo a sentire come va sulle strade. Torniamo a Inter-Bayern in compagnia di Beppe Bergomi. Beppe, buongiorno. Ciao Gigi, buongiorno a tutti, ciao. Grazie innanzitutto di questa tua disponibilità. È un piacere. Piacere tutto nostro. Senti Beppe, che impressione ne hai avuto così in generale? Poi andiamo sul dettaglio. Da quello che ho potuto io interpretare così la gara è che la partita l'ha fatta quasi sempre il Bayern Monaco. Certo. L'Inter ha giocato con orgoglio, anche con coraggio, perché non possiamo dire che non ha avuto delle occasioni, perché occasioni le ha avute anche importanti. Però sul piano del gioco così la squadra di Van Gaal ha dato qualcosa in più. Sembrava anche sotto l'aspetto fisico-atletico avesse qualcosa in più rispetto all'Inter, soprattutto nel secondo tempo. Però sì, le occasioni importanti l'Inter le ha avute. Sì, per questo mi è sembrata saggia, tutto sommato, la disposizione che l'Inter ha avuto, e cioè di attesa, no? di anche di passività in certe fasi, forse per un gap atletico, come hai detto tu, e affidandosi poi a queste fiammate improvvise. Il problema è che in grado di fiammeggiare c'era solo Eto'o, perché sia Sneijder che Stankovic mi pare che mi è andato poco ieri sera. Hai detto bene, soprattutto Sneijder ha fatto troppo poco. Stankovic lo sapevo, me l'aspettavo, insomma uno quando rientra dopo un infortunio e giocare in quel ruolo, è vero che lui sa attaccare bene gli spazi ma non stava benissimo. Sneijder mi aspettavo qualcosa in più ed effettivamente Eto'o era troppo solo, avesse avuto una punta, cioè il Milito di turno ieri, sì, secondo me male faceva quella difesa, ecco, sicuramente. Sì, perché la loro difesa, sinceramente, era una giusta previsione, no? Quella che la si poteva colpire. E io credo che la si potrà colpire anche a ritorno, da quel punto di vista lì. È ancora tutto aperto, Gigi. Io penso che se l'Inter interpreta bene la gara, con pazienza, di non lasciare troppi spazi al contropiede del Bayern, tanto questi vengono a giocare, la giocano sempre, c'è la possibilità, perché sbagliano ogni tanto, perché le occasioni migliori dell'Inter sono venute su dei disimpegni sbagliati, dove l'Inter è stata brava ad accorciare in avanti, ha recuperato palla, ha avuto la ripartenza corta e ha avuto l'occasione, soprattutto quella clamorosa, di cambiarsi. Eh sì, una in particolare è proprio un erroraccio sulla sua tre quarti di Schweinsteiger. Sì, esatto. Da matita blu, non da matita rossa. Sì, esatto. E questo introduce il discorso di questo Luis Gustavo, nel senso che noi eravamo abituati a vedere Schweinsteiger come perno del gioco del Bayern. Ieri sera mi pare lo sia stato sto Luis Gustavo, di cui francamente non è che, vabbè, voi a Sky probabilmente ne sapete di più, ma diciamo che noi spettatori normali è stata una sorpresa grossa anche. Io ne so qualcosa in più, perché volevo sapere di più di questo giocatore, allora mi sono informato, perché è stato preso come centrocampista, ma questo giocatore ama giocare dietro le punte. Sai dove lo faceva? Dove l'ha fatto giocare Van Gaal fino all'altra sera? Sempre terzino sinistro. Ma pensa. Per la prima volta ha giocato un po' nel suo ruolo, cioè centrocampista centrale. E ha fatto una grande partita. Eh sì, cioè uno che trova la posizione in un ruolo così delicato in un batter d'occhio, vuol dire che è un signor giocatore questo. Fatto molto bene. Senti, vuol dire anche, se vogliamo mettere così con un pizzico di perfidia stracittadina, che liberati dalla presenza di Van Bommel con un pacco dono no? In direzione Milan, loro hanno trovato l'assetto con Luis Gustavo. Sì, lui, guarda, io dico, Van Bommel è un giocatore che a me non dispiace da questo punto di vista, e per il Milan forse andava anche bene, viste le emergenze che aveva a centrocampo, però non conoscevo anch'io questo Luis Gustavo, visto ieri sera nel suo ruolo, perché l'avevo visto sempre giocare terzino sinistro, perché ero pronto a vedere questa partita, mi ero preparato un po' sul Bayern Monaco, l'ho visto sempre giocare terzino sinistro e non ti entusiasmava, invece giocare lì, nel cuore del gioco del Bayern, ieri sera ha fatto una grande partita. Senti, qualcuno che criticherà un allenatore ci sarà sempre, no? Perché se non vinci, a maggior ragione se perdi, in qualche maniera la colpa dell'allenatore c'è sempre. Una delle, non dico accuse, ma insomma dei rilievi ricorrenti è stato quello che al momento dell'infortunio di Ranocchia tanto valeva usare con Pandev. Io credo che il Pandev degli ultimi tempi, non so se fosse il caso, e tra l'altro aggiungo anche che già in quel momento c'era un'inferiorità abbastanza netta anche fisica dell'Inter. Secondo me squilibrare ulteriormente sarebbe stato più un suicidio, o no? Io sono d'accordo in questo senso, perché la squadra, nonostante avesse un centrocampista in più, però sia Stankovic che Sneijder non aiutavano, e gli altri tre in mezzo al campo facevano troppa fatica. Cioè, gli è andata male, a quel punto l'Inter puntava sullo 0-0, no? Sì, gli certo. È andata male che alla fine c'è stato quell'infortunio del portiere e hanno trovato il gol dell'1-0. Ma andare con lo 0-0 sicuramente le prospettive potevano essere diverse. E non squilibrare la squadra, mantenere un certo equilibrio di assetto, secondo me era fondamentale ieri sera, viste le difficoltà che ha l'Inter, l'abbiamo visto anche con il Cagliari, che è una squadra che era un po' sulle gambe. Senti, l'errore di Julio Cesar è errore di Julio Cesar, e su questo non si discute. Però io mi ricordo te, per esempio, no? Non ci dovevo arrivare. Mi ricordo te che poi il portiere va protetto, mi pare, no? Non puoi assistere al portiere che magari la vomita corta, perché può succedere. È la prima regola che ti insegna il difensore, sul tiro da fuori andare ad accorciare sempre verso la porta e verso il portiere, mentre Gomez va, Lucio rimane proprio fermo, si è fidato troppo del portiere, ma lì un difensore deve andare subito verso la propria porta e proteggere il proprio portiere. Non l'ha fatto, è vero che c'è stato l'errore di Julio Cesar, ma sicuramente anche Lucio soprattutto è rimasto troppo statico. Direi proprio di sì. Senti, come se l'è cavata Chivu a pari tuo con Robben, fermo restando che marcare uno come Robben in serata non è semplicissimo? Benino, perché nell'uno contro uno non l'ha mai saltato, perché quando ha preso il palo è partito dalla parte opposta e ha tagliato e poi a calciare di destro. Da quella parte aveva sempre il raddoppio di Cambiasso e quindi se l'è anche cavata. Però sai cos'è la forza di questo giocatore? Che lui, anche se non ti salta, sposta la palla e ti mette questa palla che diventa, certo, sempre pericolosa, e quindi è difficile neutralizzarlo del tutto. Certo. Senti, senza contare che poi anche appunto, a parte due o tre tentativi di conclusione, a parte il tiro decisivo col concorso di colpo del portiere, però già prima lui nel primo tempo una su Gomez, nel secondo una su Müller, ha messo due par gol straordinarie comunque. Sì, perché lì è immarcabile Gigi, perché lui si sposta la palla e poi te la mette con una rapidità. E se ci sono gli inserimenti con i tempi giusti diventa difficile, perché Riveri ha preso il palo, c'è la traversa e Müller di testa l'ha tirata fuori di pochissimo. E poi da quella parte, sai, ogni tanto Lam veniva giù, perché la grande occasione che ha avuto il Bayern è quella nel primo tempo, quando ha messo la palla dietro, che Gomez l'ha buttata alta. L'ha ciccata in un modo... Senti Beppe, ancora una cosa sul verdetto, che è questo. Io ho sentito dire ieri sera soprattutto Spondarai che è un verdetto ingiusto, che è un verdetto crudele, eccetera. Ora, per carità, perdere a quella maniera all'ultimo minuto, cioè, che sia crudele, non c'è discussione. Che l'Inter abbia creato un sacco di palle gol grazie a Eto'o in particolare è vero. Però se noi contiamo un palo e una traversa scheggiati, due palle gol clamorose che sono quelle ricordate, comunque il gol e soprattutto la netta supremazia del secondo tempo, dire che il Bayern ha rubato qualcosa mi sembrerebbe un po' eccessivo. No, assolutamente. Io penso che l'analisi giusta l'ha fatta Rummenigge, ci poteva stare anche al pari, però il Bayern Monaco è quello che ha fatto maggiormente la partita e alla fine va a casa con un risultato di 1-0 senza, secondo me, rubare nulla, perché quando tu riesci a venire in casa dei campioni del mondo, d'Europa, e importi sotto l'aspetto del possesso palla, del gioco, rischiando anche qualcosa, perché lo sai che quando vai a giocare con questa linea difensiva rischi qualcosa, questo vuol dire un segno di star bene e di una mentalità giusta, insomma, di andare a affrontare le partite fuori casa in questa maniera. L'ultima cosa, come ti beppa? Devono passare 3 settimane da qui al ritorno, bisogna vedere se guarisce la Nocchia, insomma, ci sono chi altro si può infortunare, perché questa è un'annata, no, abbastanza maledetta, mi pare, per l'Inter e non solo per l'Inter. Ma tu come te la figuri l'Inter che va là a provare a ribaltare questa situazione? Con pazienza deve andare, non scoprirsi più di tanto, perché un gol lo puoi sempre fare alla fine, non devi assolutamente prenderlo. I tedeschi, come hanno giocato qui, giocano là, quindi ogni tanto con qualche disattenzione, come ha avuto Schweinsteiger, qualche giocata sbagliata, e se tu hai il coraggio lì a quel punto di ripartire veloci gli puoi fare male, però deve avere pazienza, perché se ti scopri troppo presto in velocità questi ti fanno male. Grazie a Beppe Bergomi. Ci mancherebbe. Ciao Gigi, buon pomeriggio e ad una prossima occasione. Grazie per questa disamina così dettagliata, ma anche così profonda, così obiettiva soprattutto. Ho sentito ieri sera telecronache e commenti Rai veramente imbarazzanti. Ecco, questo invece è, a parer mio perlomeno, una giusta e corretta analisi, non dico bipartisan perché è un aggettivo pessimo, insomma, ma equidistante comunque, no, è ragionevole, e fatta da uno che con l'Inter ha giocato 758 partite, che è stato 191 volte capitano e che ha un record di presenze in Coppa Europea di 96 partite, beh, insomma, mi sembra che, come dire, adesso che non è più collegato e quindi lo dico più volentieri, lo dico con meno imbarazzo, mi sembra una notevole riprova ennesima di serietà professionale. Beppe Bergomi accennava prima al giusto commento, alla giusta valutazione di Rummenigge, che adesso vi facciamo ascoltare. No, sarebbe stato il risultato logico, forse anche più giusto, perché tutte e due hanno avuto qualche occasione da gol, purtroppo non realizzate, ma penso che soprattutto è stata una partita divertente, perché anche sullo 0-0 è stata una partita bella, quindi, ma abbiamo avuto anche un po' di fortuna di vincere. Ma non dobbiamo fare l'errore di essere già scontenti di aver passato il turno, perché c'è il ritorno a Monaco, poi l'Inter è sempre un avversario pericoloso, quindi bisogna concentrarsi bene. Questa è una saggia raccomandazione. Poi non vi dico qual è lo score del Bayern di qualificazione in Europa ogni volta che ha vinto l'andata fuori casa, non la dico perché sennò gli interisti, come dire, si spaventerebbero. Ci sarà poi sempre tempo di eventualmente di farlo una volta giocata la partita di ritorno. I vostri interventi in diretta, poi sentiremo delle altre voci che arrivano per esempio da Bologna-Roma. Mario ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto voglio fare i complimenti a Rummenigge, perché dopo essere stato in Italia 3 anni e più di 20 anni in Italia parla l'italiano meglio di noi bergamaschi. Poi in merito al mercoledì è bello e al giovedì, perché non ci sono i problemi degli arbitri. Da interista comunque dico Quindi in merito a ieri sera dico solo che passeremo, usando delle parole di Mourinho, dalla tripletta a zero titoli quest'anno, perché non è più quella dell'anno scorso, pur giocando secondo me bene, però la porta non la vediamo più, a parte il top. Grazie, vi ascolto per radio. Beh, le dirò che la porta ieri sera, sì, solo ed esclusivamente detto, ma la porta non l'ha mica vista poco, perché anzi io trovo che l'Inter ieri sera sia stata saggia nella disposizione, nell'atteggiamento, e brava nel colpire, grazie a un Eto'o assolutamente straordinario, strepitoso. E ci sono volute almeno tre prodezze del portiere tedesco per fermarlo. Quindi questa è secondo me, la conferma che la partita era molto ben impostata e che probabilmente era l'unica maniera di giocarla. Poi non si erano fatti i conti con un grande portiere che Van Gaal ha promosso a sorpresa poco prima di Natale, giubilando il titolare, perché non ne voleva più sapere, e mi pare che abbia avuto ampiamente ragione. E dall'altra parte invece c'è stato questo errore di Julio César, con la coproduzione determinante di Lucio come Bergomi, come avete appena sentito da un giocatore che qualche partita a livello internazionale nella sua vita l'ha giocata. Giorgio Prato, buongiorno. Buongiorno a lei dottor Garanzini. Se mi permette, volevo farle una domanda e poi una considerazione veloce. La domanda è questa, riferita alla debacle, speriamo momentanea, delle squadre italiane, no? Io penso, e non so se lei è d'accordo con me, che in qualche parte possa anche essere determinato questo dal fatto che i nostri migliori allenatori, soprattutto quelli di maggiore esperienza, allenano oramai lontano dall'Italia. Quindi queste partite, a mio parere, questo può essere determinante. E la considerazione veloce è questa: non solo i nostri difensori non accorciano più sulla respinta del portiere, ma proprio in area di rigore non marcano più. E mi viene in mente il gol di Matri contro l'Inter. Perché in nome della zona sembra che in area di rigore invece bisogna marcare lo stesso. E mi viene in mente quanto diceva un nostro corregionale, da noi molto stimato, che è Eugenio Fischetti, che diceva che in area di rigore il difensore deve stare talmente appiccicato all'attaccante che dopo la partita deve essere in grado di sapere cosa questo ha mangiato due giorni prima. Sì, Fascetti è sempre stato un immaginifico, e magari non è proprio da salotto questa espressione, però certamente rende l'idea. Efficace, come è sempre stato efficace Fascetti, sia da allenatore che da battutista di eccellente livello. Sì, i migliori allenatori o gran parte dei migliori allenatori sono all'estero, però insomma ce ne sono altri qua. Io credo che la Roma abbia perso, non so se per colpa anche di Ranieri o meno, probabilmente sì, io credo, perché negli ultimi suoi tempi alla Roma io credo che Ranieri ne abbia, forse non solo per colpa sua, per ragioni ambientali, però ha finito per andare insieme non poco, come si dice a Milano. E però certamente anche per ragioni diverse, per uno scadimento di forma, per una condizione precaria, per un blocco mentale. Insomma, comunque così è maturato un 2-3 in casa contro lo Shakhtar Donetsk, dopo essere andati in vantaggio per 1-0, che era un risultato che tatticamente andava difeso. Poi no, non voleva dire mettersi a fare catenaccio, ma tatticamente andava difeso, certamente. Il Milan ha giocato, sì, in condizioni di inferiorità contro il Tottenham. Secondo me delle tre partite la più deludente in assoluto è stata quella del Milan, perché è vero che il Tottenham è una buona squadra, una signora squadra, ma che venga il Bayern a importi la superiorità di manovra sul tuo campo qui, come è successo ieri, beh, insomma, in fondo è abbastanza prevedibile, soprattutto date le caratteristiche dell'Inter di oggi, che preferisce ritrarsi e poi colpire. Ma che per un intero primo tempo il Tottenham passeggi per la metà campo del Milan, beh, insomma, questo era un po' meno da mettere in conto. Mi sposterei anche sul campionato per ascoltare il commento di Montella, vittorioso al suo debutto sul campo del Bologna. Si sono intraviste anche delle buone giocate, si è intravisto lo spirito di squadra, si è intravisto la collaborazione, anche la coesione, direi, quindi sono veramente molto soddisfatto. Giocatori super disponibili, Francesco è stato eccezionale anche nel comportamento, è un esempio anche per i compagni, per come si allena. insomma, compattare l'ambiente, no? da ex calciatore, e tra l'altro fresco ex calciatore, Montella è partito da lì, poi è partito anche da qualche recupero, perché insomma, chi ha visto la partita di ieri, rispetto alle edizioni più recenti della Roma, non può non aver notato la differenza che fa avere o non avere Pizarro in mezzo al campo. Averlo ieri ha significato 10-15 minuti di ambientamento, perché Pizarro mancava da mesi ad una partita vera, ma poi a gioco lungo c'è una bella differenza tra avercelo o non avercelo. Ma è indubbio che l'aver fatto discorsi chiari, l'aver ripristinato il dialogo, che mi pare di aver capito e di aver sentito, di aver letto che negli ultimi tempi con Ranieri non c'era più, ha prodotto subito delle conseguenze. Montella ha parlato chiaro, ha detto per esempio che sui portieri non ci può essere ballottaggio, perché uno deve essere titolare, ne ha scelto uno, ha scelto Doni, in combinazione ha scelto quello che Ranieri invece non faceva giocare, ma insomma, torto ragione che abbia, ha preso una strada di chiarezza, e questa credo che sia sempre la strada migliore. Malesani invece l'accento lo ha messo indubbiamente su un torto che ieri ha subito il Bologna, oggettivamente. Sentiamo. Per me, gli ho detto anche a Banti, era che lui doveva avere il coraggio di farlo uscire. Poi dopo, se hanno deciso così, spero che quando ci capiterà a noi non succeda il fatto che ce lo facciano uscire. Tutto è riferito a un fallo di mano di De Rossi, un fallo di mano volontario che è successo direi intorno al 40esimo. I tempi di ieri non sono facilissimi da ricostruire, perché essendo iniziata la partita al 16esimo, beh, insomma, non è molto semplice, no, capire. Però diciamo che dopo un tot di minuti, un quarto d'ora e 20 circa, De Rossi aveva fatto un fallo da dietro da ammonizione ed era stato giustamente ammonito davanti. 4-5 minuti dopo gli capita una palla di quelle che schizzano, no? in un contrasto con un avversario, e istintivamente allunga la mano e la palla la colpisce con la mano. Da regolamento è ammonizione, quindi De Rossi meritava il secondo cartellino giallo e andava espulso. È vero, come ha spiegato il designatore Braschi a fine partita, scendendo dalla tribuna, che quella è una zona di campo in cui, dato che eravamo nella tre quarti di campo del Bologna e quindi la porta della Roma distava 70 metri almeno, e non stava partendo un'azione decisiva, perché in effetti non stava partendo nulla, Braschi ha sostenuto che insomma, non è così automatico in questi casi il cartellino dell'ammonizione. Io credo che si possa discutere a lungo, credo che l'arbitro Banti abbia avuto torto una volta di più nel valutare. Probabilmente lui è un arbitro molto bravo se si tratta di valutare le cose di piedi o di testa, ma se si parla di mani non deve essere proprio il suo ramo. Certo, chi ha paragonato questo errore a quello di domenica su Robinho evidentemente sta facendo demagogia, perché altro è un mani a tre quarti di campo a 70 metri dalla porta, altro è un mani che ti aggiusta la palla per metterla in rete. Forse un po' di differenza c'è. Giuseppe da Isernia, buongiorno. A lei. Dottore, io volevo dire una cosa. Ieri venendo a partire all'Inter ieri sera, negli ultimi minuti la squadra era stanchissima, si vedeva. Però l'Inter aveva anche altri due cambi da fare. Come mai l'allenatore è rimasto impassibile a guardare? E che può fare? Si mette a correre lui, Giuseppe? No, non lo so. Se gli altri corrono, succede che gli altri corrono di più, no? Qualche volta sei tu che corri più degli altri, qualche volta sono gli altri. Cosa fai? Si inventa, porta tre maratonetti in panchina perché così almeno quelli corrono? Evidentemente non si può fare. L'Inter quest'anno, non solo l'Inter, ma l'Inter ha avuto un sacco di infortuni, e quando tu hai giocatori che rientrano in continuazione da infortuni e poi si infortunano di nuovo e poi ancora, la condizione ottimale non ci sarà mai fino a fine stagione, quindi con quel problema lì bisogna fare i conti. Il fallo di mano volontario è sempre sanzionato con ammonizione, scrive Gianni, ma Braschi si inventa nuove regole. No, non si inventa nuove regole, e distingue tra il fallo volontario e il fallo istintivo, e secondo me c'è un po' di differenza. Quello di De Rossi ieri era istintivo più che volontario. Detto questo, se Banti ieri secondo me doveva cacciare il secondo cartellino, così impara De Rossi non tanto ad avere quel gesto istintivo, ma impara 5 minuti prima a non stendere da dietro un giocatore avversario a 50 metri dalla porta, che proprio non era il caso. Max, ascoltatore triestino, fa lo spiritoso, dice: Banti già prima sembrava un abito di seconda mano e adesso è diventato addirittura di terza mano. Sembra ieri, in rubrica di Nicola Filippone, vediamo cosa ha scovato oggi per il 24 di febbraio. Sembra ieri. 24 febbraio 1952. Giuseppe Meazza, monumento del calcio italiano, debutta sulla panchina della nazionale in un amichevole contro il Belgio a Bruxelles. L'ex asso dell'Inter e dell'Italia, due volte campione del mondo, ha assunto l'incarico di commissario tecnico in tandem con Piercarlo Beretta. Il debutto però è un incubo. L'Italia costruisce molte palle gol, ma non riesce a superare il portiere Mert e finisce per capitolare per la prima volta contro il Belgio subendo due reti. L'esperienza in panchina di Meazza non sarà memorabile, con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Torniamo dagli amici già collegati con noi. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Senta, io ieri sera ero allo stadio con 2 miei carissimi amici Walter e Federico, che saluto, che sono in viaggio. E ho notato, cioè, quello che ha detto Bergomi sono perfettamente d'accordo, comunque la disamina molto giusta, ma ho notato che l'Inter ha giocato con 10 giocatori più o meno stanchi, più un vigile urbano che era Thiago Motta. Volevo sapere cosa ne pensava lei, perché è un ruolo nuovo, diciamo, che avrebbe inventato Leonardo, che a me appare veramente non consono alle caratteristiche di Thiago Motta, che è troppo lezioso, troppo lento a volte, e sfrutta così poco anche le caratteristiche ottime che ha, tutto sommato, per segnare, per centrare la porta. Lei cosa ne pensa di questo? La penso come lei, penso che Thiago Motta in quel ruolo da playmaker davanti alla difesa, comunque come perno arretrato di un rombo, mettiamolo come vogliamo, sia un po' lento. La stessa sensazione che ho avuto vedendo l'esordio di Thiago Motta in nazionale, cioè mi sembra molto lento in quella fase distributiva, in quella zona del campo. Oltretutto, dato che quella è una zona in cui sì, si costruisce, ma forse soprattutto si rompe, o comunque ci si oppone, io credo che in quel ruolo sia preferibile Cambiasso, che scrive per esempio l'architetto Diego Magni da Milano: è il miglior frangiflutti davanti alla difesa degli ultimi 5 anni in Italia e forse in Europa. Questa è una mail appena arrivata, adesso lasciamo stare se in Italia o in Europa. Comunque, mentre invece Thiago Motta, spostato qualche metro più avanti, che non mi ha mai fatto impazzire come giocatore, ma che nelle giornate o nelle serate giuste è un signor giocatore, credo che spostato qualche metro più avanti e in un ruolo, come dire, di minor responsabilità gestionale ma di maggior creatività e lampo e improvvisazione, penso a quella combinazione del derby dello scorso anno improvvisata con Milito, ecco, io credo che in quel ruolo potrebbe forse dare di più e rischiare di nuocere di meno, quindi sono d'accordo con lei. Agostino, Brescia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo parlare dell'errore della difesa, ma ha già parlato ampiamente Bergomi. Ieri sono stato contento perché l'arbitro finalmente ha ammonito un giocatore per protesta, ce ne fosse anche nel campionato italiano. Cioè, nel senso che basta protestare, ogni fallo si protesta. Per la regola c'è solo il capitano, una volta si diceva che può protestare. Sì, sì, infatti il nostro calcio è il più maleducato d'Europa, non so se del mondo o meno, ma d'Europa non c'è dubbio, e quindi sì, quindi basta vedere. Io ho visto ieri sera un paio o tre di... due in particolare mi hanno colpito, due situazioni in cui Robben era convinto, o comunque recitava, come tutti recitano, che la palla sul una volta un calcio d'angolo e una volta una rimessa laterale fossero per lui, quindi per il Bayern. L'arbitro o l'assistente, adesso non ricordo, forse tutte e due insieme, gli hanno dato torto e la rimessa dal fondo o laterale è stata per l'Inter. Questo ha abbassato la testa e ha andato via, esattamente come fanno le persone educate. Ma non riguarda l'Inter questo, riguarda qualsiasi giocatore del nostro campionato. Noi siamo abituati a comportarci in una maniera leggermente diversa. Raffaele ha chiamato da Napoli, buongiorno. Pronto, buongiorno. dottor Granzini, volevo sapere una cosa. Secondo lei, con l'arrivo di Montella, cosa può cambiare realmente nella Roma? E se non pensa che il male di questa squadra è la fase difensiva e soprattutto Giovane, Riese e Cassetti sono buonissimi giocatori più in fase offensiva, ma in fase difensiva praticamente lasciano che l'attaccante avanzi tranquillamente e vada a segnare. Quindi se sono queste le due pecche della squadra, volevo sapere cosa ne pensa. La ringrazio. Io penso che se parliamo di Cassetti sia un buon terzino d'attacco, un buon difensore esterno destro d'attacco e un discreto difensore. Se parliamo di Riese, io credo che sia uno dei più grandi bluff della storia recente del calcio internazionale, parlo anche del Liverpool, non solo della Roma, perché non sono mai riuscito sinceramente a capire quali fossero i pregi di Riese, al di là di un gran tiro che esibisce però veramente una volta ogni tanto, ma tanto tanto. Ma da qualche tempo a questa parte Riese mi sembra proprio imbarazzante anche sul piano della quella che oggi chiama reattività, insomma della presenza sul campo. Anche ieri, in cui pure tutta la squadra aveva altre motivazioni, altro carattere, altra vivacità, altra freschezza, Riese ha giocato perlomeno un primo tempo ad un imbarazzante raro, sia in fase difensiva che offensiva. Gianluca ha chiamato la Bologna, buongiorno. Buongiorno, la chiamo per porre due considerazioni, poi mi dirà lei se sono corrette o meno. Secondo me, purtroppo ai noi, come Mourinho carica le squadre, non c'è nessun altro allenatore che riesce a farlo. E abbiamo la riprova con il Real Madrid di quest'anno, che ha una grinta incredibile. Ma poi, soprattutto, secondo me, dal prossimo anno, guardate, quello che in parte non ha speso quest'anno dovrà spendere, perché la squadra ormai è evidente che è un deficit atletico verso chiunque altra squadra clamoroso. La ringrazio e la ascolto. Grazie a lei Gianluca. Sì, il deficit, io non so cos'altro debbano spendere, onestamente, perché con quello che hanno rispeso adesso la campagna di gennaio e con il fair play in arrivo, non so cos'altro possano spendere, non so nemmeno cos'altro possa spendere Real, se cominciamo a parlare di un calcio un pochino più per bene, no? Per bene da un punto di vista di controllo amministrativo, ma se invece continuiamo a parlare del solito calcio folle, sì, allora certamente ha ragione lei, qualcosa dovranno fare sia gli uni che gli altri. Io dedicherei adesso il finale della puntata al Napoli e alla vigilia di Mazzarri che ha più o meno deciso la rinuncia a Cavani e l'impostazione tattica della partita di stasera col Villarreal. Giocando sempre con gli stessi, quelli che voi pensate più titolari di altri, si può arrivare ad esempio contro il Milan essere stanchissimi e avere un rendimento sotto, non il massimale, ma ancora minore. Quindi Cavani rientra in quei giocatori che appunto hanno giocato domenica, che hanno finito stremati. Allora, mi viene da sorridere, il calcio è bello perché sì, ognuno può dire la sua, no? Noi sappiamo cosa facciamo, chi lo vuol vedere lo vede, chi non lo vuol vedere non lo vede, a me non è che mi interessa più di tanto, a me secondo me in Italia forse il miglior calcio lo facciamo noi, e tutto il resto a casa mia si dice aria fritta. Sta friggendo il buon Mazzarri. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio a tutti.